Slade con la versione originale di questa Mama We're All Crazy Now, poi portata al successo anche dalla formazione dei Quiet Riot. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, "Do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover." We'll be right back. Grateful Dead con il grande Jerry Garcia, che fu A Touch of Grey il titolo del motivo. Siamo entrati nell'ultima ora, vi avevo anticipato oggi ospiti, in effetti l'ospite che rappresenta una band intera, e tra poco sentirete la sua voce che ritorna dopo un po' di anni, l'abbiamo ospitato l'ultima volta non da solo, con altri del gruppo, eravamo ancora negli altri studi, quelli più piccoli. Oscar degli Statuto, tra poco qua su Rock FM. Rocky Mountain Way, questo è il brano per Mr. Joe Walsh. Vi ho anticipato allora Oscar degli Statuto qua nei nostri studi a rappresentare la band. Ciao e ben ritornato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie, ciao. Ciao Oscar, allora, 25 anni, voi a 25 siete arrivati, noi a poco più di 18 e sabato prossimo, lo sai, ci chiudono, ma magari poi ne parleremo, lo so. E elegantemente Rudy, Statuto, 25 anni di attività contenuti in questo doppio best of, giusto? Sono tanti, sì, 25. Sono tanti, sì. Però volevamo celebrare questo quarto di secolo mettendo sull'unico supporto tutte le canzoni che più ci rappresentano, che più riteniamo importanti per la nostra storia, e quindi l'antologia ci voleva. Ci voleva anche perché alcuni nostri album sono esauriti e fuori catalogo. Altri non sono mai usciti, per esempio altre canzoni non sono mai uscite su vinile, okay. E siamo usciti anche in vinile con questa antologia, anche se non sono 40 le canzoni come un doppio CD, ma ce ne sono soltanto 15, però ci piaceva che il nostro pubblico potesse ascoltare anche dal vinile, quindi con sonorità diverse, delle canzoni che riteniamo significative. Bello questo, il fatto di ritornare ancora al vinile, che non è da tutti. Del resto voi siete nati col vinile, giusto? Vinile, certo. Perché io leggo la data, 1 maggio 1983. È il giorno della fondazione del gruppo, il giorno del primo concerto, del primo brano, che cosa? È il giorno del primo concerto. Provavamo già a settembre, ottobre dell'82, poi il 1 maggio 83 abbiamo suonato quasi per caso di supporto. A Torino, sì, spalla a un gruppo molto importante per Torino, i Blandelli, che avevano come leader Gigi Restagno. Mm-hmm. Ci prestarono gli strumenti per suonare qualche pezzo prima di loro e suonammo le cover degli Specials, Country Jungle e Rabbia Mod, con testo ovviamente fatto in italiano, e allora identifica come quello il primo concerto nostro, ed allora il primo quello maggio festeggiamo. È rimasto il primo maggio, bene. Allora io direi di partire innanzitutto ascoltando la musica, faremo un po' un excursus, breve, del resto abbiamo tre brani. La canzone che hai scelto è Ghetto, che in pratica è quella che dopo l'inedito apre, sì, il lavoro. Che storia c'è dietro questa canzone? Perché Ghetto è il nostro secondo singolo in realtà, ma è il primo suonato in maniera professionale, diciamo così, sì, abbastanza professionale, decente, è uscito nel 1987, e questa versione è quella proprio di quel singolo, anche se è rimasterizzata, è stata poi inserita anche in Zighidà, però questa è la versione, la prima versione. Quindi era un'autoproduzione all'epoca? Sì, un'autoproduzione, okay. Sì, un'autoproduzione, e il testo comunque è scritto a neanche 20 anni, dice delle cose importanti della realtà urbana, e poi come sonorità molto soul, molto così nere, con i fiati, che per il periodo era una cosa sicuramente innovativa per l'Italia. Hai detto che eravamo nel 1984? 87. 87, quindi Ghetto ce l'ascoltiamo e poi commentiamo ancora. Thank you. metropoli. La solita è nel dolce vento, la solita non cambia mai, la solita è solo nel ghetto. Erano le note di Ghetto, caro Oscar, ti porto i saluti di fratello scooterista di Genova e poi ne è arrivato un altro. Saluti Oscar da un ex statuto da Ravenna. Ciao Mauro. Ah sì, sì, allora ringrazio l'amico di Genova. Noi a Genova abbiamo festeggiato il nostro 25esimo compleanno proprio con un concerto il 30 aprile. È quindi benissimo. Recente. Sì, sì, sì, è stato proprio. E poi Mauro, sì, il nostro ex bassista. Oh, vedi che è all'ascolto, magari non lo sapevi nemmeno, guarda te. Questo vuol dire che la radio è molto ascoltata anche da Ravenna. Anche da Ravenna, vedi un po' te. Peccato proprio. Guarda, poi magari anche tu hai avuto esperienze radiofoniche. Io sì, sì, sì. O magari anche in quel caso cose che sono terminate, eccetera. Esatto, facevo un programma Radio Torino Popolare, che non è Popolare Network, era Torino Popolare, e è stata chiusa anche questa, ha venuto la frequenza due anni come fa. Come vedi, a volte i cicli e ricicli nella musica, purtroppo ora anche cicli e ricicli nelle radio. Nelle radio. Vabbè. E che importanza hanno avuto per voi la radio? Importanza non è una retorica, davvero fondamentale. Pur essendo in Italia, sappiamo che in Italia certo genere di musica è appunto come dici tu ghetto, quindi magari può essere stata o lo è ancora ghettizzata, eccetera. Però la nostra musica sì è sicuramente fuori dalle mode, dai consumi e dagli schemi abituali, però è comunque radiofonica e devo dire che abbiamo sempre avuto un buon rapporto con le radio locali, anche quelle grosse, comunque ci hanno suonato i nostri pezzi e soprattutto è stato importante per farci conoscere anche dal punto di vista proprio delle, come esempio stiamo facendo adesso l'intervista, cioè del messaggio, certo. Parlare così arrivare perché magari chi è l'ascoltatore si limita a sentire la canzone e si aspetta determinate cose dagli artisti, invece sviluppando i temi dei testi, parlando le interviste eccetera, è sempre stata una cosa che ci ha molto dato possibilità di avere più gente in concerti, avere più possibilità di suonare in giro. Ecco, il fatto di poi siete stati tra i primi, le band un po', definiamole così, alternative, a finire su un palcoscenico come quello del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Poi ultimamente anche altre band rock sono arrivate. Sì. E adesso non so se è stata una vostra scelta, l'etichetta ha detto dovete andare perché eccetera. È servito comunque nel bene o nel male questo, Oscar? Sì, la storia come ci siamo finiti è una storia lunga, noi non ci volevamo andare, poi brevemente abbiamo fatto una votazione proprio con tutti i mozzi di Piazza Statuto per alzate di mano e è stata approvata. Quasi alla avete chiesto quindi un referendum quasi per sì poter, sì per una votazione palese, i votanti 73, 71 favorevoli, uno contrario e uno astenuto, l'astenuto ero io e quindi così. E quindi siete andati. E abbiamo fatto bene perché poi non abbiamo assolutamente cambiato la nostra natura, il nostro stile, le nostre idee e da allora riusciamo a vivere comunque grazie alla nostra musica, grazie ai concerti che facciamo e devo dire che ci ha cambiato la vita e sicuramente è stata una tappa molto importante nella nostra carriera. Ok, quindi questo lo rifaresti a questo punto? Nei termini in cui è stato fatto l'altra volta, sì. Ok, perfetto. Mi chiedono se andrete a suonare a Firenze. Dunque, il tour non so se è partito, se è già attivo, se per voi non c'è un tour, ma siete sempre pronti con lo strumento in mano, perché giustamente mi hai detto noi viviamo di musica, quindi ci avrete sicuramente anche alle spalle un'agenzia, o siete autonomi da quel punto di vista e scegliete voi dove andare? Noi abbiamo un'agenzia che ci segue, okay. Che Milano Concerti, ma noi siamo in tour praticamente perenne, o quasi, almeno da quando è uscito l'altro disco, come un pugno chiuso che è uscito a ottobre, e da allora abbiamo già fatto quasi 40 date. E continuiamo a farne, per l'estate ce ne sono già in programma tantissime. Dalle parti di Firenze non ci sono date, a meno che io mi ricordi, purtroppo segnalate. Abbiamo suonato però a Firenze alla FLOG. A gennaio, se non ero febbraio, è andato molto bene, tra l'altro locale strapieno, tutto l'incasso l'organizzatore ha deciso di devolverlo seguendo le nostre indicazioni al fondo per le vittime delle famiglie della ThyssenKrupp, delle robe della ThyssenKrupp, e quindi è stata un'iniziativa bellissima e quindi insomma devo dire che è stata una buona idea rincambiata dal pubblico. Grazie, hai fatto una bella cosa. Tra parentesi, anche noi il 1° giugno nel nostro piccolo, dopo la chiusura della radio, saremo alla FLOG di Firenze a una festa per salutare e ringraziare gli amici della Toscana che ci hanno seguito e che continuano a seguirci. Ma ritorniamo a noi, quindi l'atmosfera, la dimensione del palco è quella che è più consona per voi sicuramente. Certo, perché c'è confronto continuo col pubblico, noi ci divertiamo molto, ci divertiamo veramente tanto forse addirittura più degli inizi. Più degli inizi? Sì, sì, sì, perché abbiamo imparato a suonare un po' meglio anche, e insomma, devo dire che il rapporto col pubblico è fondamentale, la cosa, il momento in cui non ci si divertisse più smetteremo, però noi continuiamo veramente a divertirci tanto. E questa è la cosa positiva. Il fatto che nel booklet che accompagna il doppio CD trapanesi è il prezzo singolo? È a prezzo di sì, dovrebbe costare, c'è questa forbice per usare termini elettorali, ci sono posti che costa 17 euro, qualche altro posto 21, purtroppo la normativa europea dice che non si può imporre un prezzo, si può solo consigliare, noi lo consigliamo 17 euro con la nostra casa discografica, però poi il negoziante è libero di venderlo anche più caro. Sono comunque 40 i brani che 40. Vanno a ripercorrere, come dicevamo poc'anzi, tutta la vostra storia che abbraccia forse più di un genere musicale, dal rock, il pop rock, lo ska, rocksteady e la musica dei mods dell'epoca. Voi siete tra i primi esponenti italiani, giusto? Sì, sì, sì. Che non solo era un è un modo di vita anche? Certo, no, è un modo di vivere, è una scelta di vita che il nostro così, la nostra ragione di esistenza e di statuto è quello di far sapere che i mods esistono, agiscono, e con la musica facciamo conoscere il più possibile le nostre idee, il nostro stile, il nostro comportamento, e per noi quindi proprio è quello che ci spinge a suonare così come era 25 anni fa, lo è anche adesso. Nulla è cambiato. No, assolutamente no. Nonostante appunto anno dopo anno il calendario porta all'anno successivo il numero sale, l'età purtroppo avanza per tutti, non si può ancora bloccare, però vi ritrovate pienamente in tutto quello che avete fatto. Assolutamente. Bello questo. Dopo Ghetto, che hai spiegato è stata una delle, la seconda canzone, il vostro secondo singolo. Sì. Andiamo a Piazza Statua, no, era Ragazzo Ultra. Ragazzo Ultra. È la numero 5, esatto. Sì, perché Ragazzo Ultra è stata la prima canzone che un gruppo ha dedicato ai tifosi delle curve, tifosi organizzati, già noi l'abbiamo scritta nel 1987, proprio anche questa, è uscita poi nell'album Vacanze l'anno seguente. E devo dire che negli anni abbiamo sempre sposato la causa dei tifosi ultras, che sono spesso demonizzati dai media, vengono presi come capro espiatorio, adesso il calcio moderno tende a far stare a casa e a seguire le partite sulla televisione a pagamento invece di andare allo stadio, stadi fatiscenti, stadi che non sono assolutamente adatti ad accogliere i tifosi. Il fatto di bloccare le trasferte è una cosa che ancora di più a nostro giudizio serve a fare abbonamenti alle televisioni a pagamento, e questo intero disco, non soltanto il brano Ragazzo Ultra, c'è anche Vita Ultra contenuto nel disco, ma tutto il disco è dedicato a due ragazzi che sono morti in maniera tragica purtroppo negli ultimi mesi, ovvero sia Gabriele Sandri, Gabbo, che è morto a dicembre, e l'autogrill vicino ad Arezzo, e anche Albagna di Parma, che anche lui è morto in maniera tragica pochi mesi fa in un autogrill. Ecco, noi ricordiamo questi due ragazzi che erano ultra, sono cose che sono capitate a loro, potevano capitare anche a noi, e quindi tutto il nostro lavoro è dedicato a loro. Certo, qui si potrebbe aprire, o qualcuno potrebbe aprire la pagina e dire beh, però tutte queste cose che succedono anche domenica scorsa eccetera, queste persone non sono veramente degli ultra, sono dei delinquenti che si inseriscono o cos'altro? Adesso non so quale possiamo parlarne sì, e il discorso è molto complesso. Articolato, complesso, quindi bisogna sempre spiegarsi bene, parlare con tranquillità, non abbiamo sicuramente non tempo è questa sufficienza, sicuramente ecco. L'occasione. Però fare abbinare il binomio ultra delinquenza è veramente una cosa assurda che va superata nella maniera più totale e assoluta. Ok, allora andiamo ad ascoltarci il brano e poi magari anche nel testo, se qualcuno lo ascolta, ci sarà quello che tu vuoi esprimere, quello certo. Che voi volete esprimere. Ragazzo ultra, nella tua curva passi le ore.